Amen. Abbiamo già vissuto proprio tanto, eh? È bello come Dio ha una direzione, ed è bello quando noi siamo predisposti nel ricevere quella direzione e ci lasciamo guidare in maniera così naturale. Ed è bello poter pensare a come, cioè, cantando anche quello che abbiamo cantato, no? Santo, è un nome oltre nazioni, domini, governi. Ed è bello pensare come noi, esseri umani, possiamo rapportarci a qualcosa di così, a Dio, che è così alto, che è così grande, che è perfetto, eppure Lui viene a parlare con noi. E questo è già un miracolo. E non solo fa questo, ma Lui rende le nostre vite con un significato e con un senso, arricchisce le nostre vite per far sì che siano vite piene, vite per cui vale la pena vivere, vite pronte a ricevere, no? E vite che sono lì nella posizione giusta per ricevere tutto quello che Lui vuole dare a noi, che sono all'interno della Sua volontà. E questo dovrebbe entusiasmarci, cioè noi abbiamo a che fare con un Dio così grande, eterno. Però non lo so, non so voi, ma forse il pensiero, no, di essere pronti, di essere nella posizione giusta per ricevere tutto quello che il Signore ha da darci, le sue benedizioni, le sue ricchezze, forse non è proprio il primissimo pensiero che è nelle nostre menti, no, quando ci svegliamo. Il fatto di dire e chiederci, ma io oggi, no? Oggi domenica mattina sono perfettamente allineato alla Sua volontà, pronto per ricevere quello che Lui ha da dare a me. Sono perfettamente al centro, nella posizione giusta. Poi il Signore fa quello che vuole, no? Lui è Dio, è eterno, è giusto. Però io, dal mio canto, sono pronto per ricevere questo. Tutta la ricchezza che Lui ha per me, tutta la benedizione che Lui ha per me. E di fronte al fatto che no, noi siamo in questo posto e siamo credenti, no, crediamo nel Signore, e pensare che questo non è proprio il primo dei nostri pensieri un po' fa sorridere. E mi sono chiesto un po' il perché accade questo, forse no, perché le cose che sono intorno a noi, i nostri interessi o le preoccupazioni di ogni giorno, un po' per noi sono più salienti, sono più toccabili. Ci svegliamo e magari nostro figlio inizia a piangere, nostro, vostro figlio inizia a piangere e poi deve andare a scuola e allora noi ci affanniamo per questo, è il nostro primo pensiero, oppure no, il lavoro, affannarci per cercare un buon lavoro, una buona posizione, una persona accanto, sono tutti pensieri che martellano la nostra mente e allora no, poi Dio diventa un'area fra queste. Cioè diventa un'ulteriore parte che magari possiamo vivere durante la domenica o possiamo vivere in quei momenti che ci prendiamo noi con Dio, quei 10 minuti, un quarto d'ora, quando Dio, no, dovrebbe sedere sul trono della nostra vita, essere quel filtro a maglie proprio strette che determina ogni decisione, ma anche ogni pensiero, ogni emozione in tutte queste aree della nostra vita. Dio dovrebbe sedere sul trono della nostra vita, essere il punto di riferimento dal quale poi parte tutto. Però poi questo a volte non è così, è perché, anche perché forse ci dimentichiamo che cosa vuol dire essere in quella posizione e ricevere le grandi benedizioni che Dio ha per noi. Magari l'abbiamo vissuto in un momento della nostra vita, l'abbiamo anche percepito che cosa vuol dire essere nella volontà di Dio pienamente e ricevere, ma ce ne siamo dimenticati. Oppure abbiamo dimenticato tutto quello che nella parola di Dio è scritto. No, ci sono storie che oggi leggeremo di persone che sono state grandemente benedette, che hanno visto cose incredibili, che hanno visto un mare aprirsi, che hanno visto dei leoni non mangiarli, e poi no, pensiamo a noi, diciamo, vabbè, ma se finissi io in una fossa dei leoni mi mangerebbero sicuramente, o il mare non si aprirebbe mai davanti a me, io non le vivo quelle cose, la mia vita è un po' diversa, Dio agisce in maniera diversa, è un altro tempo, ma no, Dio è sempre lo stesso. E durante le nostre vite quasi ci sembra di non riuscire a toccarla la vita con Dio. Cioè sì, leggiamo, no, di questi grandi uomini, sentiamo testimonianze quando vengono ministri, missionari, e noi ci sentiamo sempre un po' distanti, che quasi ci passa davanti e mai riusciamo a prenderla la vita con Dio. E oggi noi leggeremo di questi uomini che in virtù delle loro scelte, beh, l'hanno proprio vissuta questa vita, le hanno proprio vissute quelle ricchezze. E leggiamo subito, da Genesi 26, dall'1 al 6. Nel paese ci fu una carestia, oltre la prima che c'era già stata ai tempi di Abramo, e Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Il Signore gli apparve e gli disse: «Non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti dirò. Soggiorno in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo, tuo padre. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi paesi. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza». Perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Così Isacco rimase a Gerar. La prima cosa che possiamo notare da questo passaggio, cioè è proprio evidente come ci sia un collegamento tra la benedizione e l'obbedienza di Abramo, che ha fatto quello che il Signore gli diceva di fare, e poi Isacco che lo fa ancora. E sapete, il termine benedizione, già nella sua radice ebraica, condivide questa radice con la parola ginocchio, inginocchiarsi. Ed è così chiaro, no? Il legame con la sottomissione a Dio. E però quando parliamo di ubbidienza, e anche qui lo possiamo leggere e si capisce come si tratta di un rapporto intimo con un Dio che parla a me personalmente. Un'intimità differente, un'intimità che va al di là di quello che noi incontriamo quando abbiamo a che fare con Gesù per la prima volta, no? Un Gesù salvatore, un Gesù che è venuto qui, morto e risorto per noi, però c'è altro, c'è un'intimità maggiore che si può raggiungere tramite l'obbedienza. Ma in fondo anche Gesù lo ha detto, no? In Giovanni 15, dal 14 al 15, lui cosa dice? Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Amici e servi. Gli amici di Dio non sono quelli che passano tempo con Dio o che magari leggono tanto, stanno alla sua presenza tanto tempo. Gli amici di Dio sono quelli che obbediscono a Dio. È chiaro. E vi è una differenza tra amici e servi, perché essere in quel rapporto con Dio di così grande intimità è l'unico modo per dare senso e significato a essere sotto l'autorità di Dio, perché sennò siamo servi. Ed è difficile, è tanto difficile seguire il Signore essendo suoi servi. Magari, ecco, sì, servendolo, venendo la domenica qui, partecipando, ma non avendo quel rapporto di intimità è proprio difficile, perché non troviamo il senso. Perché dovrei ubbidire a Dio? Perché dovrei ubbidire alle cose che Lui mi dice? Ma è nel rapporto di intimità, è nel fare quel passo che si trova un significato, ma anche alla propria vita, perché diventa una vita che conosce tutte le cose udite dal Padre. Diventa una vita che è all'interno di un piano, di un progetto eterno. La nostra vita prende un significato al di là dell'oggi o del domani, ma prende un significato eterno quando diventiamo amici, amici di Dio. E il rapporto tra salvezza, grazia, ubbidienza, benedizioni è un rapporto molto particolare, perché no, la salvezza è ottenuta per grazia. Quindi noi non dobbiamo rendere, non sono delle opere, no? Lo sappiamo che ci portano a salvezza e grazia. Ma nel momento in cui noi, no, diamo per vero che il Signore è venuto qui, è sceso ed è morto e risorto per noi, questo lo crediamo tutti? Ecco, noi dovremmo bruciare, dovremmo proprio ardere per essere nella sua volontà. Se diamo per vero che nella Bibbia c'è scritto questo ed è vero, allora tutte le altre cose sono lo stesso vere. E come potremmo rinunciare a tutte le benedizioni che ci sono, a tutto il bello che c'è, a tutta la ricchezza che c'è quando siamo nella volontà di Dio? È qui che trova senso tutto questo, nell'essere brillanti, pieni, splendenti nella volontà di Dio. Quando è l'ultima volta che ci siamo sentiti luce? Noi siamo luce, sale della terra, questa è la vita prevista per noi, questa, non un surrogato di vita con Dio, non qualcosa che vediamo fuori e magari cerchiamo di rimanere un po' nella volontà di Dio però cercare di dire quanto più in là posso spingermi in questo peccato, quanto posso avvicinarmi al burrone, quanto posso andare lì, quanto... Se facciamo questo ci cadiamo e non viviamo la verità. Noi ci giochiamo un po' con la grazia, no? La grazia è un dono grande che il Signore ci ha fatto. Ma nel momento in cui noi ci giochiamo, non scegliendo di stare da tutt'altra parte, nella parte dove scegliamo di essere figli dell'Eterno, benedetti, grandemente benedetti, perde significato. Perde significato la vita col Signore. E continuiamo a leggere, perché quello che fa Isacco è proprio questo, scegliere di rimanere e guardare a quella benedizione. Dal 12 al 19 leggiamo che Isacco quindi seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più finché diventò ricchissimo. Fu padrone di greggi, di pecore, di mandri, di buoi e di numerosa servitù. I Filistei lo invidiavano. Perciò turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati al tempo di Abramo suo padre. Abimelech disse a Isacco: vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Isacco allora partì di là, s'accampò nella valle di Gerar e vi si stabilì. Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo e che i Filistei avevano turato dopo la morte di Abramo, e li chiamò con gli stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva. Isacco ubbidisce, viene grandemente, grandemente benedetto. E i Filistei lo invidiano, e poi li turano i pozzi, e poi lo cacciano. Ma Isacco non guarda a questo. Isacco non va lì a contendere nelle cose del mondo. Non va lì a fare lite o a dare guerra. O magari non si affligge, non scende a quel livello. Noi non dobbiamo scendere a quei livelli lì. Noi dobbiamo avere gli occhi fissi sulla promessa e sulla benedizione che il Signore ha per noi. Quando siamo nella volontà di Dio, quando compiamo queste scelte, tutto intorno può venir meno, tutto può venir meno. Possiamo essere cacciati, possono essere turati i pozzi, ma noi ne scaviamo di altri, perché non è in virtù di pozzi, è in virtù di quello che il Signore ci ha promesso. È in virtù della sua benedizione che noi viviamo e che noi scegliamo. E ancora, dal 20 al 25, ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco dicendo: l'acqua è nostra. Così egli chiamò il pozzo Ezek, perché quelli avevano litigato con lui. Poi i servi scavarono un altro pozzo e quelli litigarono anche per questo, e Isacco lo chiamò Sitna. Allora egli partì di là e scavò un altro pozzo per il quale quelli non litigarono, ed egli lo chiamò Rehoboth, perché disse: ora il Signore ci ha dato spazio libero e noi prospereremo nel paese. Poi di là Isacco salì a Beersheba, il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse: io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere, perché io sono con te e ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo Abramo. In quel luogo egli costruì un altare, invocò il nome del Signore, vi piantò la sua tenda e i servi di Isacco vi scavarono un pozzo. Cacciato, pozzi turati e i pastori litigano ancora e ancora, ma Isacco che fa? Ancora e ancora, scava un altro pozzo, e un altro pozzo, e un altro pozzo. Ogni pozzo che veniva scavato era una possibilità che veniva data al Signore di operare. Ogni pozzo che veniva ancora scavato era una testimonianza che la vita, che la sorgente d'acqua viva non era nel pozzo, ma era nel Signore. Scaviamo ancora e ancora, non guardando a quello che accade intorno, ma a quello che il Signore ci ha promesso e alla benedizione che Lui vuole dare alla nostra vita. Lui continua a scavare e Dio lì non manca, arriva e rinnova la promessa, perché Dio fa così. Noi facciamo un passo, facciamo un piccolo passo e lui ne fa 100 verso di noi, arriva e rinnova la promessa: io ti benedirò ancora. E poi accade ciò che dovrebbe accadere un po' a tutti noi, dal 26 al 29. Abimelech partì da Gerar e andò da lui con Auzat, suo amico, e con Picol, capo del suo esercito. Isacco disse loro: perché venite da me, visto che mi odiate e mi avete mandato via dal vostro paese? Quelli risposero: noi abbiamo chiaramente visto che il Signore è con te. E abbiamo detto: si faccia ora un giuramento tra di noi, cioè fra te e noi, e facciamo un'alleanza con te. Giura che non ci farai alcun male, così come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto altro che del bene e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora benedetto del Signore. Chiaramente, chiaramente. Le nostre vite dovrebbero dare chiaramente di Dio. Dovrebbero essere così profumate, così ricche, così prospere, che non ci devono essere dubbi che il Signore è con noi, che il Signore vive. E non si tratta di carattere. Non si tratta di c'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha, c'è chi è carismatico, c'è chi ha questo dono, c'è chi sa parlare bene, c'è chi sa parlare male. No, la differenza è che è tra chi sceglie di arrancare nella vita con Dio, non guardando a Lui, e tra chi invece sceglie di mettere il Signore sul trono, di farlo re, di seguirlo, di essere quel riferimento costante. E attraverso conoscenza della sua parola, attraverso esperienza, sceglie di essere un benedetto del Signore. E qui la differenza. Perché se le persone non vedono nella nostra vita qualcosa di diverso, se non vedono che una vita con Gesù è una vita ricca, è una vita vera, è una vita per la quale vale la pena vivere, perché? Perché dovrebbero avere interesse per Gesù? Noi dobbiamo essere luce del mondo, sale della terra, ma davvero, e dovremmo vivere tutte queste cose qui. Le persone dovrebbero venire da noi e dirci: ma tu che c'hai? Che c'hai? Perché? Perché vivi così? Perché sei così? Chi hai? E noi lì poter dire: io vivo in Dio, vivo nell'unica via che ha senso, l'unica, scegliendo non di vivere per le cose e per le logiche di questo mondo, per le emozioni di questo mondo, per i sentimenti di questo mondo, ma scegliendo di vivere per l'unica verità. E ci sono quattro ragazzi che hanno compiuto una scelta un po' difficile in questo. Daniele e i suoi amici erano deportati al regno di Nabucodonosor. E succede questo in Daniele 1:3-8. Il re Nabucodonosor disse ad Aspenaz, capo dei suoi eunuchi, di condurli dei figli di Israele di stirpe reale o di famiglie nobili. Dovevano essere ragazzi senza difetti fisici, di bell'aspetto, dotati di ogni saggezza, istruiti e intelligenti, capaci di stare nel palazzo reale per apprendere la scrittura e la lingua dei Caldei. Il re assegnò loro una razione giornaliera dei cibi della sua tavola e dei vini che li beveva. E ordinò di istruirli per 3 anni, dopo i quali sarebbero passati al servizio del re. Tra di loro c'erano dei figli di Giuda, Daniele, Anania, Misaele e Azaria. Il capo degli eunuchi diede loro altri nomi. A Daniele pose il nome Baltasar, ad Anania Sadrach, a Misael Mesach e ad Azaria Abednego. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. La scelta che qui prende Daniele è una scelta proprio difficile, è una scelta davvero dura da compiere, anche solo pensando al capo degli eunuchi, no, che doveva rendere al re conto di quello che faceva, anche solo pensare di chiederlo a quella persona lì di fare una cosa simile era difficile, ma poi era difficile perché loro erano deportati, erano in un paese straniero, e poi no, dovevano essere prestanti secondo le conoscenze del tempo per essere quello che Nabucodonosor chiedeva. Era una scelta proprio difficile da compiere, difficile, ed era una scelta che andava a toccare l'identità di Daniele. Già nel cambio dei loro nomi la loro identità era stata toccata perché gli erano stati dati nomi di divinità straniere. Ma in quel momento Daniele fa una scelta di identità per dire: io appartengo a Dio. E ci sono tante scelte difficili che noi siamo chiamati a fare nella nostra vita, scelte di onestà, scelte di integrità, scelte di perdono. Però il Signore ce lo dice, ce lo dice in Luca e ci dice: che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo quando perde se stesso? Che gli serve? Per che cosa non scegliamo Gesù? Per cosa scegliamo di barattarlo? Per un momento? Per una promozione? Per una gioia di un attimo? Per cosa lo barattiamo? Per cosa non scegliamo Gesù? Perché poi senza Gesù siamo persi, lo sappiamo. Se crediamo, sappiamo che la nostra vita ha senso in Lui, l'abbiamo detto, e senza di Lui siamo persi. Per cosa lo stiamo facendo? Ma Daniele sceglie in cuor suo di farlo, e nel momento in cui noi facciamo, come prima, un passo verso il Signore, e poi è il suo turno. E lui arriva innanzitutto facendogli avere grazia agli occhi dell'eunuco, ma poi leggiamo dal 12 al 16. Lui dice all'eunuco: ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni, dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni essi avevano migliore aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legumi. Amen. Questo qui è il nostro Dio. Questo qui è il nostro Dio. E quelle cose che sono successe all'epoca, questa cosa qui, che dei legumi e dell'acqua, hanno fatto sì che loro potessero essere più forti e più prestanti di tutti gli altri, è qualcosa che può accadere oggi. Quali sono i nostri legumi e la nostra acqua da dover mangiare e bere? Qual è quella scelta sincera, quella scelta di integrità, di radicalità che dobbiamo fare per vivere tutto questo? Come si può non desiderare di vivere una cosa simile? La vita con Dio è una vita avventurosa. È una vita che ha senso, è una vita piena, è una vita con un significato, dove noi facciamo un passo e Lui ci dà. Quali sono i tuoi legumi e la tua acqua da dover scegliere per fare una scelta di identità, per dire: Signore, io voglio essere nella tua volontà. Perché poi il Signore non si ferma qui, perché quando la sua benedizione arriva, scende in maniera copiosa. 17:20. A questi 4 giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, egli li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. Non c'è partita. Quando i figli di Dio scelgono di essere nella volontà di Dio e fare quello che il Signore dice, non ce n'è per nessuno. Non c'è niente che può essere simile a questo. Isacco raccolse il centuplo, loro 10 volte superiori in intelligenza, in conoscenza. E sapete, i magi e gli astrologi del tempo erano gli scienziati del tempo. Dio non ha limiti. Le forze naturali li sono sottomesse, questo dobbiamo crederlo. Dobbiamo avere questa speranza che non c'è conoscenza, non c'è fisica, non c'è chimica che può rendere di fronte al Signore. Dio è sovrano su tutto. Non c'è logica, non c'è scelta strategica che può reggere. Quando noi scegliamo di essere nella volontà di Dio, accade questo. E poi, però, ovviamente, di fronte a tutto questo, io penso che un pensiero nasca spontaneo. E le difficoltà? Cioè, è quando ne viviamo di cose, quando ne viviamo di momenti duri, lutti, mancanze, delusioni, pugnalate. E lì che cosa succede? Lì la benedizione dov'è? Lì chi siamo? Lì i benedetti del Signore? Lì il senso? Dov'è? Beh, i figli di Dio le vivono le difficoltà, e io penso che ne vivano anche a volte in maniera maggiore rispetto agli altri, perché scelgono qualcosa di diverso rispetto al mondo, o perlomeno dovrebbero farlo. Ma io credo che per reggere questo e per riuscire a rispondere a questo, delle verità debbano regnare nella nostra vita. La prima è che essere nella volontà di Dio è la benedizione più grande per la nostra vita, nei momenti buoni, nei momenti felici e nei momenti più tristi e più difficili. Essere nella sua volontà ci protegge. Il Signore lì ci richiede fede, e la fede è quell'ingrediente fondamentale per riuscire a distinguere Dio da un realizzatore dei nostri sogni, da un realizzatore delle nostre volontà. E qui la seconda verità, che l'ubbidienza non ci porta più vicino ai nostri sogni. Essere ubbidienti a Dio non è il nostro biglietto per accedere a quello che noi vogliamo, quando lo vogliamo e come lo vogliamo. E perché magari poi a volte possiamo pure arrabbiarci con Dio. Cioè ci prendiamo anche questo lusso di arrabbiarci col Signore, che è un lusso che non dovremmo avere e prenderci. Quando noi preghiamo, Signore, sia fatta la tua volontà, e poi accade, ed è diversa dalla nostra, siamo disposti ad accettare questo, ma dovremmo, perché questo ci protegge, perché qui c'è la verità, questo è vero. E sapete, c'è il prossimo personaggio che incontriamo, che è Giuseppe, figlio di Giacobbe, che ne ha vissute di difficoltà, e c'è stato un momento della sua vita dove lui non si è sentito forse per niente un benedetto del Signore, venduto dai suoi fratelli, sangue del suo sangue, a mercenari, e poi in Egitto da Potifar, il capo delle guardie. Lui era lì, lontano, chilometri e chilometri da casa, prigioniero, schiavo in Egitto, eppure cosa leggiamo? Qualcosa che dovremmo vivere. Genesi 39, 2 e 5, quella che dovrebbe essere la normalità per i figli di Dio. Il Signore era con Giuseppe, a lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. È chiaro quello che accade, che dal momento che lo ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. È proprio chiaro che il Signore era con Giuseppe, e deve essere proprio chiaro per le nostre vite, anche per uno straniero, anche per un egiziano, che il Signore è con noi. Ed è una benedizione che va oltre misura. Benedice non solo Giuseppe, ma tutta la casa dell'egiziano. Benedice non solo la sua casa, ma anche la sua casa di campagna. Questo è bellissimo. Giuseppe era grandemente benedetto nella difficoltà. E Giuseppe lì viene però tentato dalla moglie di Potifar, che lo vede come un bel ragazzo. E però lui rifiuta. E che succede? Che è lui che viene accusato di voler abusare di lei. E lui finisce in prigione per questo. Perché anche questo è quello che succede ai figli di Dio. Quando prendiamo delle decisioni per il Signore, a volte le viviamo delle prigioni, a volte le viviamo delle difficoltà. Ma lì la benedizione di Dio non si ferma, perché anche nella prigione, anche lì, lui troverà grazia davanti agli occhi del capo dei carcerieri. E queste cose sono cose che ci possono far sorridere, a volte dire ma questo non accade, ma questo non è vero, eppure è scritto. E nel momento in cui no, come all'inizio, siamo qui e crediamo che il Signore Gesù è sceso ed è morto e ha vinto la morte per noi e poi è risorto, se crediamo a una cosa simile non ci dobbiamo stupire di fronte a tutto questo. E quella verità, che la volontà di Dio è la più grande benedizione che può esserci nella nostra vita, ha motivazione nel fatto che quando vengono i momenti bui e difficili, perché i momenti bui e difficili arrivano per tutti, soprattutto a volte anche per i figli di Dio, sapere di essere nella volontà di Dio e sapere che il Signore lì e accanto a noi fa tutta la differenza del mondo. Sapere che anche nel momento difficile il Signore c'è accanto, che in quel fuoco Lui è con noi, cambia tutto. Se dobbiamo viverli in questa vita, se i momenti duri dobbiamo viverli, ecco, viverli col Signore penso sia sia qualcosa di completamente diverso. E magari a volte ci diciamo, Signore, ma perché in casa mia succede questo? Signore, perché io vivo questo? E magari Giuseppe se l'è potuto chiedere, no? Ma lui lì era benedizione per quel posto. Allora, piuttosto che chiedersi, Signore, perché io sto vivendo questo? Perché in casa mia succede questo? Perché nel mio luogo di lavoro succede questo? Chiediamoci, Signore, Signore, io voglio essere nella Tua volontà, come posso essere benedizione? Questi sono i figli di Dio. Questi sono i figli di Dio, che hanno certezza che il Signore è accanto a loro, hanno certezza che il Signore è lì in quella situazione perché sono nella sua volontà e sono di benedizione. E Giuseppe vivrà tante avventure, lui uscirà dalla prigione e rincontrerà i suoi fratelli. E in quel momento i suoi fratelli che l'hanno venduto, quando si rincontrano, hanno paura che lui possa vendicarsi, temono questo. E Giuseppe però dice qualcosa che ci fa comprendere come lui ha capito. Genesi 50, dal 19 al 20, Giuseppe disse loro, non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Giuseppe aveva compreso come la sua vita non fosse fine a se stessa, ma fosse parte di un piano più grande, di qualcosa con un significato di eterno, che comprendesse la salvezza del popolo di Israele. La nostra vita, oggi, per cosa la stiamo vivendo? Dove siamo? Per cosa stiamo pensando? Per cosa stiamo avendo sentimenti e emozioni? Per cosa ci accendiamo? Per qualcosa che ha un significato per domani o un significato eterno. Se noi guardiamo e leggiamo a queste storie e non ci ritroviamo, non abbiamo mai vissuto una benedizione come questa, non ci ricordiamo che la nostra vita appartiene a tutto questo, stiamo proprio vivendo a metà la vita con Dio. Ci stiamo privando di una ricchezza che va al di là di quello che tutto il mondo può dare, perché la nostra vita ha senso nell'eternità, come ci dicevamo, ha senso nella vita eterna. Noi scegliamo di credere nel Signore, ma qui, oggi, che viviamo? Vogliamo davvero lasciare andare questa vita così, senza vivere di questo, senza vivere tutta questa bellezza, di scegliere per il Signore, di scegliere di essere nella sua volontà e vedere tutto il bello che Lui ha per noi? Come possiamo rinunciare a tutto questo? Quando Paolo nel suo mandato doveva andare verso Gerusalemme, anche i discepoli, anche le persone più vicine a lui gli dicevano non andare a Gerusalemme, perché lì vivrai sofferenze, sarai legato. Anzi, lo leggiamo proprio in Atti 21. Eravamo là da molti giorni quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo. A Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Quando udimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si lasciava persuadere, ci rassegniamo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Dal cibo alla prigione a una vita. Paolo qui non solo sceglie di essere legato, malmenato, ma di dare la sua vita per Gesù. Sapete, è scritto che i discepoli, i primi discepoli, loro erano felici di essere ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. È una vita completamente su un altro piano rispetto a tutto quello che viviamo giornalmente. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Noi apparteniamo a qualcosa di diverso, a qualcosa che ha un profumo, un valore, un significato diverso. E nel momento in cui tu hai detto al Signore, no, io, Signore, credo in te, io ti do la mia vita è tua, precisamente, cosa intendevamo? Precisamente per noi che cosa vuol dire questo? Signore, ti do la mia vita. Cosa implica nella nostra quotidianità? E Paolo, durante il suo mandato, è stato tante volte grandemente benedetto. Tante volte. Lui nelle sue prigioni, nelle sue prigioni, durante anche l'ultimo dei periodi lì a Roma, lui viveva delle prigioni differenti rispetto a tutti gli altri, prigioni dove lui riceveva dei fratelli, poteva parlare loro, poteva condividere. È stato morso da una vipera e il veleno non ha avuto effetto, tanto da essere considerato una divinità. La vita dei credenti è grandemente benedetta, perché è una vita per Dio. E se Dio è con noi, chi o cosa può essere contro di noi? In virtù di quell'amore, di quel grande amore per il quale Lui è morto per noi, cosa potrà essere contro di noi? Cosa non potrà andare secondo la sua volontà d'amore quando lo scegliamo? Sapete, quando Paolo in Ebrei parla di Gesù, dice che per la gioia che gli era posta dinanzi, lui sopportò l'infamia, sopportò la morte, morì. E quella gioia eravamo io e te. Quella gioia eravamo io e te. Lui l'ha fatto per te e per me. Lo ha fatto. Ha scelto di morire per te e per me. E oggi, noi, a cosa siamo chiamati a morire? Cosa dobbiamo scegliere? Scegliere per essere i benedetti del Signore, per essere nella sua volontà. Possiamo alzarci in piedi. Abbiamo letto di vite benedette oltre ogni misura. E non so voi, ma ogni volta che leggo queste storie in me è forte il desiderio di vivere queste cose qui. Di vivere il prossimo capitolo di Atti, di vivere di quelle persone che hanno vissuto Dio, ma veramente anche qui, e non solo in virtù dell'eternità, ma anche qui su questa terra, vite benedette grandemente. E oggi mi piaceva l'idea di poter siglare un nuovo patto, qualcosa di nuovo tra la sua Chiesa e il Signore, un po' come un patto e un rinnovo quando si fanno le promesse di matrimonio dopo 25 o 50 anni. Una promessa fatta al Signore in virtù di esperienza e conoscenza di quello che Lui vuole fare con le nostre vite. E in questo momento vorrei prima leggervi le promesse che Dio fa a noi e poi vorrei pregare dicendo le nostre promesse. E ora vorrei che chiudessimo gli occhi ascoltando questo. Queste sono le promesse di Dio per la nostra vita. Poiché i vostri occhi hanno visto le grandi cose che il Signore ha fatte, osservate dunque tutti i comandamenti che oggi vi do, affinché siate forti e possiate entrare in possesso del paese nel quale state per entrare per impadronirvene, e affinché prolunghiate i vostri giorni sul suolo che il Signore giurò di dare ai vostri padri e alla loro discendenza, terra dove scorrono il latte e il miele. Poiché il paese del quale state per entrare in possesso non è come il paese d'Egitto dal quale siete usciti e nel quale spargevi i semi e poi lo irrigavi con i piedi come si fa con un orto, ma il paese del quale andate a prendere possesso è il paese di monti e di valli che assorbe l'acqua della pioggia che viene dal cielo, paese del quale il Signore, il tuo Dio, ha cura e sul quale stanno sempre gli occhi del Signore tuo Dio dal principio alla fine dell'anno. Se ubbidirete diligentemente i miei comandamenti che oggi vi do, amando il Signore, il vostro Dio, servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta, la pioggia d'autunno e di primavera, perché tu possa raccogliere il tuo grano, il tuo vino e il tuo olio, e farò pure crescere l'erba nei tuoi campi per il tuo bestiame, e tu mangerai e sarai saziato. State attenti a non lasciarvi ingannare, a non abbandonare la retta via e a non servire dei stranieri prostrandovi davanti a loro. altrimenti si accenderà contro di voi l'ira del Signore ed egli chiuderà i cieli in modo che non vi sarà più pioggia. La terra non darà più i suoi prodotti e voi perirete presso nel buon paese che il Signore vi dà. Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, ve le legherete alla mano come un segno e ve le metterete sulla fronte in mezzo agli occhi. Le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando te ne starai seduto in casa tua e quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti alzerai, le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città, affinché i vostri giorni e i giorni dei vostri figli nel paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri siano numerosi come i giorni dei cieli al di sopra della terra. Infatti, se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che vi do e li mettete in pratica, amando il Signore, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a Lui, il Signore scaccerà davanti a voi tutte quelle nazioni e voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. I vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Eufrate, al mare occidentale. Nessuno vi potrà resistere. Il Signore, il vostro Dio, come vi ha detto, diffonderà la paura e il terrore di voi per tutto il paese dove camminerete. Questo il Signore promette. E tenendo sempre gli occhi chiusi, se in questo momento vuoi prendere una decisione davanti a Dio, una decisione di integrità, una decisione decisiva, solenne davanti a Lui, se in questo momento ardi in te per essere quel benedetto del Signore che vive tutto questo, per essere quel figlio amato con una vita prospera, ricca, quella vita brillante che il Signore ha per te, se scegli di essere luce e sale ancora una volta, perseverando in quello in cui crediamo, in questo momento puoi alzare la tua mano e puoi dire: Signore, io voglio appartenerti, io voglio essere benedetto, io voglio vivere di queste ricchezze, io voglio, Signore, vivere di tutto questo, io voglio essere il benedetto del Signore, io voglio tornare a te, io voglio tornare alla casa che tu hai previsto per me, una casa che non dipende dalle circostanze, che non dipende da quello che accade intorno, una casa che nelle difficoltà e nei momenti positivi è la tua casa, una casa che è nella tua volontà. E Signore, grazie, grazie per queste mani che si sono alzate, grazie per ogni cuore che in questo momento sta scegliendo di appartenerti ancora una volta, di vivere di tutte le benedizioni, Signore, che tu hai per noi, di vivere ricchezza e prosperità nella gioia e nel dolore, nei momenti semplici, nei momenti difficili, scegliere di credere a te, scegliere di credere in quello che tu dici, scegliere di credere nelle tue promesse e non in quello che accade intorno, scegliere di non guardare alle circostanze intorno a noi, ma di guardare a te, Signore, scegliere con gioia, con determinazione, con coraggio, Signore, di essere dalla tua parte, di scegliere di essere per te, Signore, di conoscere e di vivere con esperienza che è il più forte dalla nostra parte, scegliere di andare contro ogni legge fisica, scegliere di andare contro ogni legge del mondo, ogni logica del mondo, sceglierti, Signore, scegliere te ancora una volta, ancora oggi, Signore, scegliere di essere figli tuoi, scegliere per te, Signore, scegliere con coraggio e con fede, Signore, con certezza, anche se non vediamo, anche quando è dura, anche quando è più difficile, anche quando va contro la nostra parte umana, scegliere te, Signore, perché tu sei il meglio per noi, perché tu ci hai amati quando ci hai creati, quando sei morto e risorto per noi e ci vuoi amare oggi. Una scelta, Signore, che va nella settimana, che va nei mesi, che va negli anni, in virtù della tua bontà. La tua benedizione, Signore, ci rincorre e noi vogliamo fermarci e prenderla in questo momento, per il nostro lavoro, per la nostra famiglia, per chi ancora non crede. Signore, noi scegliamo te e noi, Signore, oggi vogliamo essere i benedetti del Signore. Grazie, Padre, nel tuo nome potente, Padre, con coraggio. Amen.